Ragionate bene sul valore delle condizioni. Come potete riscrivere A or B sostituendo A con vero e B con falso?